Ricordate, nella prima molecola, H2O, ci sono due atomi di idrogeno, ciascuno con numero atomico 1. A questi va aggiunto il numero atomico dell'ossigeno, che è 8. Nella seconda molecola, NaI, avete un atomo di sodio, con numero atomico 11. A questo va aggiunto il numero atomico dello iodio, che è 53.